se si dovesse ritornare al primitivo progetto di una Alitalia con pari dignità e con, quindi con la direzione di Alitalia italiana rispetto alle altre due compagnie, è una ipotesi che si può ben discutere, di cui sarò anche lieto di discutere una volta che avrò l'incarico e sarò a Palazzo Chigi come primo ministro, anche con il presidente francese Nicolas Sarkozy.